la vecchia sì, noi patria delle bande. Ho cercato mio figlio e t'ho creduto morto. Tu pianto padre, ti bacio questa mano sante. Oh figlio senza regno e fuggente, una voce sentì che mi diceva: vieni con me, sarò tua guida per lì. Thank you. Salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano. Signore, ti amo poco. La vita c'è laggiù. Questa è la vita, padre. La vita c'è laggiù. Io soffro, padre, soffro. Mi salvezza non c'è. Vita, padre, qui. Thank you. mi gira fuori nero, un cammino son più chiare delle nimi di Tolendo. Ferro, bronzo, muro, roccia, mostina, la tua capoccia, son venturi delle nimi di Tolendo. Dunque fa saluta a tutti, varca i monti, dagli flutti, dalla larga, dagli nimi di Tolendo. Thank you. piangere lui, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso. dunque il funesto con testa la reggia ed esta la città. Siamo pronti ad ogni evento. Se lo straniero vince per le nozze e se gli perde, per seppellimento. Io preparo le nozze lì alle esequie, le rosse lanterne di festa e bianche lanterne di lutto. Gli incensi e le offerte, gli incensi e le offerte, dovete di farlo, oggi mostrate di me. Intero scambiante nel fatto i ponti che cantano, i ponti che gemono e tutto quanto il resto secondo il rito minuzioso, minuzioso, infinito. Oh, ricordate il principe regal di Samarcanda. Fece la sua domanda e con quale gioia gli mandò il boia. Il boia e l'indiano gemmato saga viva con gli orecchi di come campanelli. Amore chiese fu del capitano il prince dei kirghisi uccisi, uccisi, uccisi, uccisi. E il tartaro dall'arco di sei comiti di ricche felicito estinto, estinto e decapita uccidi, ammazza uccidi, ammazza uccidi, ammazza. Thank you. sangue, giovine va, figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Fa ch'io possa morir senza portare il peso della tua giovine vita. Figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Non volere, non volere, che senti ancora d'orrore la reggia il mondo. Figlio del cielo, io chiedo d'affrontar la prova. Straniero, ebro di morte, e sia, si compia il tuo destino.

Thank you. che vuoi, di tu che vuoi, di tu che vuoi, è l'amore che cerchi, di tu che vuoi. Leopold! quell'ome? No. Quell'ome? La posseremo, chiede perdono, obbedire non può. No! Perché gridi? Lasciatela! Principessa, scusa.

今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.